Son c'ha margriata è stata, si è stata da mai 15 di mains. In dia è la ida dal stavel giù, da giù si nina nausha plata, che la è scur clausi ubi sain al. Pastr pecena quai ad aguri catau. Questoni e signuni rassave, e questoni e signuni rassave, c'è ninna zezna pur scialla lusa bai. C'è tivul quai buga di rora, c'è via d'ara qui. Tra i spialle, scamisce, scheplite, scarvune, se pli alve, che le svegno. Quai vio bu, quai pregno bu. Quai stoni e signuni rassave, quai stoni e signuni rassave. C'è ninna zezna pur scialla nusa. Tundr dres gada zilion min ce gave in ce quatte che ne slauna quai vio bu quai premio bu quai stoni e signuni rassare c'è ninna zezna pur scialla nusa mai c'è tivul quai buga di Tra spialle svacche che ti sa smulge, tra sgada il di, mince gasi ubi cutena. Io buque prendio bu. Quai stoni e signuni rassave, quai stoni e signuni rassave. C'è inna zezna pur scialla. Che ti sa sega tra e sgada di lo e mi cerca su villa che ci fa ci vio dare a ti bimulin che mora lì sega le noci salin senza mai mettersi bugin quel vio bu qua d'agno quai stoni e signuni rassave quai stoni e signuni rassave c'è ninna zezna pur scialla nus avai c'è tivul quai di rora c'è tiv signun sto quai save c'è duai sti fundai.